Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Europa 24 riparte dall'allarme Ebola. I numeri purtroppo sono drammatici in Africa occidentale. Oltre alla crisi sanitaria devastante, sono sempre più frequenti i segnali davvero di instabilità generale di paesi come la Liberia e il Sierra Leone, per anni peraltro coinvolte in devastanti guerre civili. Intanto appunto in Europa si riuniscono i ministri, lo fanno in ambito di semestre italiano qui a Milano, dunque i vertici dei ministri sanitari. Sentiamo allora come si sono conclusi i lavori con l'inviata Roberta Pellegatta. Buongiorno Roberta. Buongiorno a voi. Sì, la lotta al virus Ebola e non solo, al centro della conferenza stampa di Beatrice Lorenzini dopo l'incontro informale ieri e oggi, come dicevi, dei ministri della salute europei qui a Milano nell'ambito della presidenza italiana per il semestre UE. L'epidemia, come segnala l'OMS, non si arresta, anzi il 40% del totale dei contagi si è verificato negli ultimi 21 giorni e dunque, benché il rischio che Ebola arrivi in Europa è molto basso, ha sottolineato Lorenzini, tuttavia occorre che i paesi membri si coordinino in una strategia comune. In particolare è in corso un censimento a livello europeo delle disponibilità di posti letto in isolamento, mezzi aerei e barelle speciali per il trasporto in alto biocontenimento di pazienti contagiati. Si pensa ad esempio agli operatori sanitari europei che sono o che andranno in Africa e che potrebbero ammalarsi. Non solo Ebola, si diceva, i ministri della salute europea concordano il dover sostenere una strategia comune anche nella lotta al cancro. Uno degli obiettivi è far abbassare in 5 anni del 2% i fumatori europei, con l'intento di ridurre i malati di cancro del 15% da qui al 2020. Strategia comune infine tra i paesi membri anche per calmierare i prezzi dei farmaci nuovi come quelli carissimi contro l'epatite C. Grazie a Roberta Pellegatta, che torneremo a sentire questa sera in Europa 24 notte. E cambiamo tema, anche se rimaniamo su aspetti drammatici, visto che parliamo di immigrazione, del programma Frontex, Mare Nostrum. Ecco, questa mattina è stato ospite di Giovanni Minoli Michele Cercone, portavoce del commissario UE agli affari interni uscente Cecilia Malmström. Si è parlato naturalmente dei finanziamenti per la nuova fase che lega Frontex a Mare Nostrum. Sentiamolo. Una volta aiutati i migranti nel mare grazie a questa, speriamo, reale sinergia di più paesi, poi dove vengono portati? Sempre in Italia? Guardi, questo sarà definito nelle linee operative di Triton. È chiaro che di solito nella prassi di Frontex, Frontex si occupa dell'aiuto al monitoraggio e alla sorveglianza, poi l'elemento di ricerca, sull'elemento di assistenza in mare e di salvataggio rimane una competenza esclusiva degli Stati membri, quindi è chiaro che in quel caso verrebbero portati in Italia. Resta però un quindi elemento importante. Quindi sempre in Italia, diciamo, per essere concreti. Sì, per essere concreti sempre in principio saranno in Italia, però c'è a questo punto un discorso e credo per la prima volta un'apertura che vediamo arrivare anche da altri paesi anche sul fatto che in Europa al momento 5 soli paesi, inclusa in questo momento l'Italia, ricevono il 75% delle domande d'asilo, quindi c'è anche una riflessione in corso da parte degli Stati membri su un'eventuale chiave di ripartizione. E infine parliamo di Erasmus, probabilmente il più popolare dei programmi europei. Ora un'indagine fa i conti e dice vale davvero tutta la reputazione positiva che si è meritata negli anni. Sentiamo. Il programma Erasmus funziona. Chi studia e si forma all'estero ha più possibilità di trovare lavoro. Secondo uno studio della Commissione europea, infatti, a 5 anni dalla laurea, il tasso di disoccupazione di chi ha trascorso 6 mesi o un anno all'estero è inferiore del 23%. Un programma di successo, dunque, ma minacciato dalla mancanza di fondi. Un problema evidenziato dalla commissaria europea all'istruzione e alla cultura, Andrulla Vassiliu. È già successo nel 2012 e nel 2013 e ogni volta siamo riusciti a coprire il buco, ha dichiarato. Spero che si riesca anche quest'anno, ma tutto dipende dai governi nazionali. Ma Erasmus per tanti milioni di giovani è stato anche un'opportunità sul versante privato. Secondo lo studio, circa il 33% degli ex studenti Erasmus ha un partner fisso di un'altra nazionalità, incontrato nel 27% dei casi durante il suo soggiorno di studio all'estero. In base a questi dati, la Commissione stima che dal 1987, l'anno in cui è partito il progetto, siano nati circa 1 milione di bambini figli di coppie Erasmus, nuovi europei a tutto tondo. Per assicurare la copertura finanziaria per quest'anno, quest'anno intanto ci vorrà un intervento correttivo alla manovra per il bilancio, sperando nella collaborazione dei 28. Miriam Corgiat, Radio 24, Sole 24 Ore. E per ora è tutto, Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.